Allora, siamo arrivati alla quinta Mishnah del quinto capitolo del Trattato di Pesachim e ora la Mishnah descriverà come si svolgeva in generale tutto l'evento del Korban Pesach nel Bet HaMikdash. Abbiamo visto la scorsa volta quale deve essere l'intenzione della persona e del Kohen. In particolare nel momento in cui si fanno le quattro avodot principali del Korban, questo abbiamo visto nella lezione precedente. Ora vediamo appunto in termini generali come avveniva questo evento. Allora la Mishnah descrive, da qui fino alla fine del capitolo: HaPesach Nishchat, la Shechitah del Pesach, ma per Shechitah si intende dire un termine generico, tutto l'evento del Korban Pesach, veniva fatto beshalosh kitot, con tre gruppi. Che significa tre gruppi? Significa che visto che tutti dovevano fare il Korban Pesach, di conseguenza non c'era spazio materiale nel Bet HaMikdash per accogliere tutti coloro che dovevano fare il Korban Pesach, e quindi si suddividevano le persone in tre gruppi, shalosh kitot. Sheneemar, e questa cosa trova allusione anche nel versetto nella Torah che parla del sacrificio del Korban Pesach, come appunto è detto, Veshachatu oto e lo shachtaranno, riferito al Korban Pesach, kol kehal adat Israel, tutta la congregazione dell'assemblea di Israel. La Torah usa tre termini per descrivere il popolo: kahal, Ve'edah ve'Israel, assemblea e congregazione e Israel, tre cose. Questa è un'allusione nella Torah a quello che poi si è dovuto fare, dividere il popolo in tre gruppi. E quindi viene presa non solamente come una necessità, quando sono tante persone, ma anche a priori, anche se non fossero molte persone, si suddividono in tre gruppi. E la Gemara spiega che ogni gruppo non deve avere meno di 30 persone. Ok? Quindi, se ci sono 90 persone, allora perfetto, facciamo tre gruppi di 30. Ma se ci fossero di meno, se ce ne fossero per esempio 50, allora il primo gruppo rientra nei 30. Si prendono 30 persone per il primo e poi si fanno 10 per il secondo e 10 per il terzo, per mantenere comunque, anche se sono di meno, per mantenere appunto comunque questa idea dei tre gruppi. Ogni gruppo non deve avere non Ogni meno. gruppo non dovrebbe avere meno di 30, Ah, non in dovrebbe, però termini va bene ideali, ugualmente se ci ma sono 30. esatto. Se per esempio la Gemara fa l'esempio, se ce ne sono 50 di Ah, sì, persone ho al primo capito. gruppo, Sì, riempiamo basta farne totalmente ai 30. tre, se proprio non ce n'è. Ok. Esatto. Ora la Mishnah continua a descrivere. Nichnesa kat harishona. Entra il primo gruppo all'interno della Azara, il luogo del Bet HaMikdash in cui avviene tutta l'Avodah. Nitmaleta Azara, finché si riempie la Azara. Parliamo del caso ideale dove le persone sono tantissime, quindi i gruppi sono molto più di 30 persone ciascuno, e quindi si riempie tutta la Azara fino a capacità possibile con il primo gruppo. Na'alu dal tota Azara. A questo punto chiudevano le porte della Azara, cosa che normalmente non avveniva se non che di notte. Perché chiudevano? Per far sì che non entrino ancora più persone e poi non ci sia la possibilità di svolgere la Avodah nel modo appunto necessario. Sì? La Azara significa la sala, letteralmente, il luogo in cui avviene tutto ciò. Dopo che hanno chiuso le porte e sono pronti ad iniziare, Takeu veheriu vetakeu. I Kohanim fecero con il suono dello shofar una tekiah, suono semplice, teruah, il suono modulato, ve di nuovo takud, di nuovo una tekiah, per indicare l'inizio della Shechitah del Pesach. Hakohanim omdim shurot shurot. I Kohanim si mettevano tutti in fila, file di Kohanim uno dopo l'altro, che diventerà, come abbiamo detto, come una catena di montaggio. Vediamo un po'. Uvidehem, nelle loro mani tenevano vasichei kesef u vasichei zahav, dei recipienti di argento, e altri tenevano dei recipienti d'oro. Questo sarà per ricevere il sangue del Corban, che, come abbiamo detto nella volta precedente, una delle avodot, dei servizi principali nel Corban Pesach, ma anche in tutte le Corbanot, è quello di ricevere il sangue della Shechita, di portarlo verso il Mizbeach e di gettare un po' sul Mizbeach, o verso il Mizbeach, ok? Allora, queste file, abbiamo detto, alcuni avevano d'oro, alcuni d'argento, il recipiente, ma era tutto in ordine, cioè Shura Shekula Kesef, Kesef, Veshura Shekula Zahav Zahav. Non erano mischiati. Per bellezza del Bet HaMikdash e della Avodah, una fila era tutta con recipienti d'oro, un'altra fila era tutta con recipienti d'argento. Ok? Lo Hayume Oravim. Non è che si mischiavano gli uni con gli altri, proprio per mantenere una maestà, una bellezza, una regalità all'evento e quindi anche un ordine particolare. Ora la Mishnah descrive questi contenitori e ci dice: Velo hayu la basichin shulaim, e questi contenitori non avevano un fondo. Non che c'era un buco sotto, ma che erano triangolari sotto, perché perché non vengano appoggiati su qualcosa e il sangue si possa coagulare. Shema yanichum, per timore che non li appoggino, vikrash adam, e il sangue si coaguli e non sarà più degno di essere gettato sul Mizbeach. E quindi erano fatti a priori questi contenitori in questa maniera. Ora, abbiamo descritto in generale, però come succede tutto? Vediamo nella Mishnah Vav, nella Mishnah successiva. Shachat Israel. Un Israel, cioè un ebreo normale, potrebbe shachtare il suo korban. Come vi ricordate, abbiamo detto che la Shechita è permissibile che un non Kohen facesse la Shechita di un korban. Questo sì. Quindi se l'Israel che porta il korban Pesach è in grado ed è volenteroso di fare la Shechita del suo Corban, lo può fare. Quello che stiamo dicendo qui non è tassativamente Israel deve shachtare. Stiamo dicendo che potrebbe, o se non è lui sarà il Kohen. Però non abbiamo detto Shachat Kohen, perché uno potrebbe sbagliare e dire che solo il Kohen può farlo. Perciò la Mishnah è molto esatta e dice Shachat Israel. Un Israel potrebbe shachtare il Corban. Se non può, lo fa il Kohen. Però Vekibel HaKohen, la ricezione, cioè il ricevere il sangue nel contenitore, questo per forza lo deve fare il Kohen. Questa Avodah, che è una delle quattro, la seconda delle quattro, lo deve fare tassativamente il Kohen. Ecco che la Mishnah è molto esatta. Shachat Israel, vekibel haKohen. Il Kohen riceve. E ora entra in atto la catena, cioè notenò la chaverò, il Kohen, vicino a lui, abbiamo detto sono file di Kohanim, il Kohen lo dà al suo prossimo, cioè al prossimo Kohen che è vicino a lui. Il contenitore con il sangue. Va chaverò la chaverò, e il suo prossimo, al suo prossimo ancora, finché si arriva al Kohen che sta vicino al Mizbeach. Perché si usano così tanti Kohanim? Perché non si dà uno o due e fanno la corsa? No. Per quale motivo? Per aumentare ancora di più la bellezza della mitzvah, come detto, Berov Am Hadrat Melech. La regalità e la bellezza del re si esprime anche nei molti servi che lo servono, nella moltitudine di popolo che è al suo servizio. Più persone sono coinvolte e più grande è il re. Allora il Kohen che è vicino al Mizbeach, un mekabel et hamale, accetta, riceve da una parte che gli arriva il contenitore pieno, e al tempo stesso ridà indietro un machazir e tareikan, il contenitore vuoto della shechita precedente. Per ogni shechita c'è un contenitore, quindi il Kohen che è vicino al Mizbeach riceve un contenitore da cui gettare un po' di sangue e restituisce uno da cui è già stato gettato il sangue. Quindi riceve uno e ridà quello vuoto. Kohen HaKarov Etzel HaMizbeach, il Kohen appunto che è il più vicino al Mizbeach stesso, Zorko Zerika Achat, dall'interno del contenitore, usa il contenitore per gettare un po' di sangue, Zerika Achat, un unico getto, un unico spruzzo, verso il Mizbeach, che nega da Isod, verso la base del Mizbeach. Quindi a differenza di quello che abbiamo studiato nella Maseche di Yomah, riguardo a Yom HaKippurim, che ci sono delle situazioni in cui il Kohen con il dito spruzza un po' di sangue, o verso il Mizbeach, o verso l'Aron HaKodesh, nel Kodesh HaKodashim, del giorno di Kippur, in questo caso invece non si usa il dito, semplicemente con il contenitore stesso si fa un unico spruzzo verso il Mizbeach, verso la base, che nega da Yisod, verso la base del Mizbeach. Perché il korban che deve essere spruzzato con il dito è il korban chattat, è quello per espiazione, ti ricordi? Sì, è questo. Sì, bravo, chattat, che abbiamo studiato nel Yomah, se vi ricordate. Scusi, ma c'è un motivo? No, tecnico? Si basa sulle precisazioni dei versetti che nella Torah parlano di questo. Sì. Ora, solo una parentesi. Vi ricordate le quattro mitzvot avodot che sono necessarie in ogni korban? La shechita, la ricezione del sangue. Qual era la terza? Holacha, il trasporto del sangue. E poi zrika, il getto, lo spruzzare. Ora, se i kohanim sono in fila, uno, uno, uno, uno, uno, finché si arriva al Mizbeach, dove sta il trasporto? Holacha significa andare. No? Portare, trasportare, non solo che arriva, ma che lo si porta lì. Allora i commentatori della Mishnah spiegano che effettivamente l'ultimo Kohen, di cui noi abbiamo detto l'ultimo che sta vicino al Mizbeach, non era attaccato al Mizbeach, era a due o tre passi dal Mizbeach, in modo tale che lui potesse comunque fare due o tre passi per ogni getto di sangue per rientrare nella Avodah della Olachah, del trasporto, che rende valido il korban. Nella mancanza di questa o una delle altre quattro c'è un problema nel korban. Ora, dopo che il primo gruppo ha fatto il suo korban, Yatzeta Katrishona, vediamo la Mishnah Zain, la settima Mishnah, Yatzeta esce fuori dalla Azara, dalla sala del Bet HaMikdash, il primo gruppo, Nichnesa kat shenia, e entra il secondo gruppo e fa tutto quello che abbiamo detto riguardo il primo, dopodiché esce il secondo gruppo, yatzeta shenia, nichnesa shelishit, ed entra il terzo gruppo. E la Mishnah precisa che ma'ase harishona kach ma'ase hashnia vashlishit, tutto ciò che accade che è stato descritto per la prima, è la stessa cosa che si seguono, le stesse indicazioni per la seconda e la terza, per il secondo e il terzo gruppo. Ora la Mishnah descrive ulteriormente quello che avveniva all'interno del Bet HaMikdash mentre ogni gruppo faceva il proprio korban. Karu et Halel, la gente mentre si faceva il korban, tu sei del primo gruppo, entri con tutta la folla, e attendi il momento in cui il tuo korban può essere shachtato, perché non possono essere fatti tutti insieme. Durante questo tempo, Karu et Halel, si leggeva l'Halel, si cantava l'Halel. I Leviim cantavano l'Halel, alta voce. E probabilmente accompagnati dalla musica, i musicisti dei Leviim. Im Gamru, se avessero concluso tutto l'Halel, e ancora c'erano persone che ancora stavano facendo il loro Korban Pesach, allora Shanu, cosa significa Shanu? Dashnaim, secondo, ripeteva, come Mishnah, ripetizione. Ricordate che Mishnah significa anche ripetizione, no? Shanu, ripetevano l'Halel una seconda volta. Vim Shanu, e se hanno concluso la seconda volta, e ancora il gruppo era numeroso e serviva molto più tempo, allora Shileshu, recitavano e cantavano per la terza volta l'Alel. Anche se la Mishnah dice Afalpisce lo shilshum mehem, anche se in realtà non è mai accaduto che avessero dovuto fare la terza volta l'Alel. La seconda volta sì, ma la terza volta non è mai accaduto. Perché? Perché sì, c'era una grande folla, ma i Kohanim sono molti e i Kohanim sono solerti. Sono molto veloci in quello che devono fare. Zrizim, Kohanim zrizim hem, fanno veloce. E quindi riuscivano a concludere le korbanot anche di un gruppo numeroso prima che si concludesse l'Alel la seconda volta. Rabbi Yehuda Omer, aggiunge Rabbi Yehuda e dice, l'amico di William, Rabbi Yehuda, mi mehem shel kach lishit, non c'è mai stata una volta che per il terzo gruppo che entra nel Bet HaMikdash, lo higiu le ahavti ki ishma Hashem, mipnei she'ama mu'atim. Dice, il terzo gruppo era sempre poco numeroso, e di conseguenza, quando i Levim iniziavano a cantare l'Alel, non arrivavano neanche a concludere la prima volta l'Alel, e non arrivavano neanche alla Havti ki ishma Hashem, cioè il quarto brano dell'Alel. Perché c'è Alleluca, poi c'è Bezet Israel, poi c'è Hashem Zecharano, poi c'è Havti Hashem. Allora al quarto brano non arrivavano. Quale dicevano dell'Alel? Alleluca intero? Sì, certo. Sì, sì. Potevano interrompere quando era il loro turno? No, i Levim cantavano l'Alel, ah, sì. Non la folla. Sì, sì, la folla magari si aggiungeva, sì, si univa, sì. Però come concetto i Levim erano sul palco a dire l'Alel. Sì, questo era il loro compito. Tanto perché, ma sì, sì. I gruppi immagino una moltitudine. Beh, dipende in che epoca e dipende in che anni, però negli anni buoni no, sicuramente c'erano tantissime persone. E durante l'Alel finivano un gruppo, riuscivano a fare allora 30, no, minimo. Rabbi Yehuda dice che il terzo gruppo 30, era sempre più. Sì, sicuramente erano di più. Però Rabbi Yehuda sta dicendo che il terzo gruppo dei tre gruppi non era mai molto numeroso, cioè riuscivano a far sì che la folla maggiore sia nei primi due gruppi. E quindi il terzo gruppo già non c'erano tantissime persone e di conseguenza il terzo gruppo dei tre gruppi che fanno sì, il corbano? Ma di tanti, cioè non riesco a capire. 30, questo vediamo il primo, 30, no? Il primo giorno il Corban Pesach, prima Corban del Pesach. E quindi immagino tanti gruppi dei cioè No, allora, ok. Chiarisco una cosa. Cioè non c'erano solo tre gruppi, c'erano no, vari siamo ondate da tre gruppi. No. Ah, sto sbagliando. Stiamo mischiando due cose. Sono sicuro che sto sbagliando. Allora chiarisco. Forse no, però chiarisco comunque. Allora, noi abbiamo studiato prima, in passato, che per il Korban Pesach si creavano dei gruppi. Okay. Cioè, visto che il Korban Pesach deve essere consumato totalmente, esatto. E quando si mangia il Korban Pesach? Dopo cena, sì. Al Hassova, dopo che siamo sazi, sì. Si mangia il Korban Pesach, sì. Allora significa che ognuno deve mangiare una misura minima, kazait, ma al tempo stesso il Korban deve essere totalmente concluso entro Chatzot, entro mezzanotte. Non si può lasciare... E quindi si formano notar, non si può lasciare in più. Cosa si fa? Si formano o famiglie intere o più famiglie, insieme aderiscono allo stesso Korban Pesach. Questi sono i gruppi che si chiamano menuyim, sono adesioni per aderire allo stesso Korban Pesach. Okay. Ora, di questo gruppo, non tutti devono andare al Beit HaMikdash per fare il Korban. Ecco, basta che uno porta l'animale al Beit HaMikdash. Uno di questo gruppo, gli altri preparano la cena a casa, rimangono lì. Ah, quindi non sono molti. Noi penso che tutti si assicurano che non ci sia il chametz, preparano la cena. Uno di loro deve e venire. Non erano tantissimi. Sì, oh, sì. Allora di ogni gruppo, forse si univa qualcun altro, però come base uno deve essere lì. Diciamo, ma non tutti. Rappresentante a famiglia. Esatto, ecco, anzi è più famiglie, perché adesioni sì, ecco. Di Korban Pesach ecco. Potevano essere più famiglie. Allora, di queste persone che venivano al Beit HaMikdash si formavano tre gruppi che in tre turni facevano il Korban Pesach. Ogni andasse. Allora no. Dico... Ecco come avveniva. Okay, questa è la maniera. Ora, solo per concludere, la Mishnah dice nella Mishnah Chet che ma'asehu b'chol, kach ma'asehu b'shabbat. Tutto ciò che noi abbiamo descritto riguardo il Korban Pesach, che veniva fatto quando la vigilia di Pesach viene b'chol, in un giorno feriale, Ugualmente tutto quanto avveniva anche durante lo Shabbat, se la vigilia di Pesach dovesse essere di Shabbat. Solamente che c'è una cosa che i Coanim facevano, anche quando veniva di Shabbat, sulla quale i maestri non erano così d'accordo. Vediamo cos'è. È là, solamente. Cioè, a Coanim medichim et azara. I Coanim lavavano, pulivano la azara, la sala, come abbiamo già descritto in passato. Vi ricordate che da c'era un canale d'acqua che passava all'interno del Bet HaMikdash, allora si chiudeva l'uscita, si riempiva tutto d'acqua e si accumulava tutta la sporcizia, e poi si riapriva e veniva fuori tutto pulito. Questo i Coanim facevano dopo che il terzo gruppo ha concluso di fare il Korban Pesach, quindi dopo i lavori della giornata, se vogliamo, e pulivano appunto questa tutta l'azara. I Coanim usavano fare questo anche quando la vigilia era Shabbat, e quindi era ancora Shabbat quando loro già iniziavano e forse anche concludevano di pulire. Ma questo era shelo ki rezon chachamim. Non era contro la volontà dei chachamim, che non hanno permesso di lavare di Shabbat. In teoria. Rabbi Yuda. Aspetta, prima di Rabbi Yuda. Per quale motivo i chachamim non erano d'accordo? Allora, in generale, qual è il divieto di lavare per terra di Shabbat? Nella Torah non c'è questo divieto. Non rientra in una delle 39 melachot o, le loro o i loro derivati, toladot, che sarebbero vietati di Shabbat. Però c'è un divieto miderabanan. Esiste un divieto dei chachamim di non lavare di Shabbat, e la Gemara lo spiega, e quindi questo si chiama shvut. Shvut significa un divieto dei maestri di Shabbat. In generale esiste una regola: en shvut bamikdash. Tutte i divieti rabbinici riguardo allo Shabbat non si applicano nel Bet HaMikdash. Si applicano solo fuori da Bet HaMikdash. Rimangono permessi nel Bet HaMikdash. I Coanim hanno il permesso, quello che serve per l'avodà, di fare di Shabbat anche ciò che fuori dal Bet HaMikdash sarebbe vietato per divieto rabbinico, per decreto rabbinico. Allora, qual è il problema? Se la pulizia del lavaggio per terra è un divieto rabbinico e noi siamo nel Bet HaMikdash, allora non si applica il divieto. Perché dice la Mishnah che i Chachamim non erano d'accordo? La Gemara spiega. Qual è il divieto che è permesso nel Bet HaMikdash, anche se è un divieto rabbinico? È quello che è necessario per la Avodah. Perché non ha senso, se la Avodah, la Torah, richiede di fare una certa cosa, e i rabbinim dicono questo di Shabbat non si può fare, è chiaro che non si applicano al Bet HaMikdash, perché nel Bet HaMikdash è la Avodah, andrebbero contro la Torah nella maggior parte dei casi. E quindi in generale hanno detto non c'è Shvut nel Bet HaMikdash, non c'è questo divieto. Ma qui non serve, puoi aspettare un'ora che escono le tre stelle e poi pulisci. Ho il tempo necessario, non è necessario per la Avodah pulire per terra dopo che la Avodah è già conclusa. Però il problema è l'igiene. Ok. Va bene, non hanno detto di non pulire. 24 ore per pulire il William, no, non c'è 24 ore. Sì, oggi è Shabbat. Sì. Esce Shabbat, sì, e pulisci. Aspetti le stelle. Stiamo parlando che la vigilia, sì, è Shabbat, non che la vigilia è venerdì. Vigilia è Shabbat. Ok? Allora non c'è problema. Allora i Chachamim hanno detto non erano d'accordo con questo comportamento dei Coanim. Ora arriviamo a Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice: Kos hayam emale midam atarovot. C'era un'altra cosa che un Kohen faceva. Il Kohen riempiva un bicchiere, un contenitore, di sangue che trovava per terra. Dam hatarovot, il sangue che è stato mischiato dai vari sangue dei vari korbanot, prima che fosse pulito per terra. E da questo bicchiere faceva un getto, uno spruzzo sul Mizbeach. Zrakose rikachat al gabea Mizbeach. Perché? Se di tutte le migliaia di korbanot, per sbaglio, un contenitore di un dam, di un sangue che è stato ricevuto dalla Shechita, non è stato gettato per sbaglio, ok? Se non fosse stato gettato, spruzzato, il Corban non è valido. Abbiamo detto che questa è una delle quattro avodot che rendono valido il Corban. E se non fosse stato fatto, può essere che qualcuno sta mangiando a casa un Corban Pesach, che non è valido. Allora ha detto, prendiamo un po' di sangue, di tutto quel sangue che si è mischiato per terra, e facciamo un getto in modo tale che anche qualcosa di... a copertura totale, per sicurezza. Ok? Allora la Mishnah dice, velo hodulo chachamim. I maestri non sono d'accordo con Rabbi Yehuda su questa cosa. La Gemara spiega citando una baraita. Per quale motivo? Solo spiego il motivo. Perché il sangue che... qual è il sangue che va gettato sul Mizbeach? È quello che si chiama il sangue della Shechita. Dam hakiluach, cioè il sangue che scorre proprio direttamente della Shechita, che è il sangue con il quale esce l'anima dell'animale. Ok? Ma per terra c'è tanto altro sangue. Dam hatamzit, altro sangue che si va ad unire per terra con... Allora, il sangue della Shechita stessa è minore di volume rispetto a tutto l'altro sangue che c'è, ed è come se diventa annullato, uno in non so quanto. Allora in proporzione è come se non ci fosse diluito, e i maestri dicono batel il dam akiluach, il dam della Shechita, il sangue della Shechita è batel, è annullato nella moltitudine, nel volume dell'altro sangue che è molto maggiore in proporzione, e quindi non ha nessuna validità. Mentre invece Rabbi Yehuda ritiene en dam mevatel dam, un sangue non annulla l'altro. Se arrivasse un goccio che fosse, che sarebbe di quello, comunque sarebbe valido. Questa è l'opinione di Rabbi Yehuda, e la Halakha non segue l'opinione di Rabbi Yehuda. I maestri non sono d'accordo, la maggioranza non è d'accordo, mi dispiace, e la Halakha non segue Rabbi Yehuda in questo punto. Ok, la prossima volta si descriverà come si faceva la preparazione del Korban dopo la Shechita. Grazie e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie.